Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Ma come fanno ad accorgersene? Voi direte chi? Momento, prima i titoli, benvenuti a Mebius, e poi parliamo, sono già qui con Chiara e con Alberto, di Dondolì, come lo chiamiamo? Dondolì. Dondolì e Bebè. E Dondolì e Bebè. E Pianti. E Pianti. Sono i Bebè. Come fanno ad accorgersene? I titoli. Ma come fa? Appena smetti un secondo di dondolarlo, il bebè piange. Sciogliamo il grande dubbio di una giovane coppia di nostri ascoltatori. Se il sistema di distribuzione delle merci in Italia fosse efficiente, non ci sarebbe bisogno di monti. Un progetto europeo potrebbe aiutarci a risolvere il problema. Fuori dal parco e in mezzo a una strada, ma è una mamma orsa trentina che porta i suoi tre piccoli a spasso sulla statale. I ricercatori raccolgono, mettono tutte le loro idee in uno scatolone e poi lo rovesciano a Bologna, davanti alle aziende. Questa è la borsa della ricerca. Per contattarci e inviarci le vostre domandone. È doveroso ripetere i contatti, allora via mail potete scriverci a mebius@radio24.it. Oppure via Facebook e siamo Moebius Scienza. Oppure c'è anche Twitter che è @moebius_online. Ecco, quindi sbizzarritevi, e questa volta ci ha scritto una giovane coppia. E sentiamo la domanda di Luca. Buonasera, perché la mia bimba di 4 mesi e mezzo, che ci fa un sacco di sorrisi, un sacco di pianti, non ci pensa minimamente ad addormentarsi da sola. Così io e la mamma siamo costretti a tenerla in braccio finché non è completamente e profondamente addormentata. Ma ecco che entrano in gioco i suoi sensori. Appena si fa anche un minimo accenno al movimento di metterla nel suo lettino, si sveglia, ci guarda male ed inizia a trasmetterci quel pianto che non la dobbiamo mettere giù. La stessa sensibilità l'ha sviluppata anche quando, pur senza intenzione di metterla giù, proviamo solo a sederci per riposare un po' la schiena. In piedi non piange, mi siedo con tutte le cautele e arriva la disperazione. Come fa a sentire questa differenza? E soprattutto, come faccio ad imbrogliarla? Ecco qua, quindi, per rispondere alla domanda di questi due giovani sposini, che cosa facciamo? Dove andiamo, Alberto? Andiamo a Roma, andiamo all'ospedale Bambin Gesù, dove c'è Stefano Vicari. Buonasera. Buonasera. Che è primario di neuropsichiatria infantile. Intanto la prima domanda è: come fa la bambina a sentire, ad accorgersi quindi che cambia la posizione? Questo è un'attività legata a dei sensori che ognuno di noi ha nel proprio corpo, che ci avvertono costantemente della posizione del nostro corpo nello spazio, quindi qualunque movimento, anche passivo, viene da noi registrato e avvertito, anche i bambini così piccoli. Come un iPad, insomma. Come un iPad. Gli smartphone che ci sono adesso. Un accelerometro. Sì, ognuno può pensare alla metafora, è meglio che da me. Mi è venuto in mente i sensori, sa, quelli per la retromarcia nelle macchine, ci avvertono quando ci avviciniamo. Certo. Dei sensori automatici che costantemente informano il nostro cervello rispetto alla posizione degli arti, del corpo in generale, nello spazio. E questo tra l'altro consente, ad esempio, poi nell'età successiva di organizzare il movimento in modo più preciso. Ma la domanda interessante mi sembra l'altra, cioè come facciamo ad imbrogliarla? Oh, qualche trucco, sì. Ecco, no, in realtà bisogna dire che i bambini non vanno mai imbrogliati. Questa è la prima verità che va affermata. Caro Luca, ecco. Mai imbrogliare i bambini, perché intanto sono molto accorti e se ne accorgono. Così come noi non vogliamo essere imbrogliati dagli altri, soprattutto dalle persone che ci vogliono bene, noi non possiamo imbrogliare i nostri figli. Ed è buona norma, buona prassi, che i bambini dormano e si addormentano da soli, o comunque con una mamma vicino, col papà vicino, racconta delle storie, ma non in braccio. Non c'è nessuna necessità fisiologica, diciamo così. Non siamo programmati per essere addormentati in braccio a qualcuno. Ah, ma allora lei qui ci sta rivelando un fatto importante, cioè non bisognerebbe abituare i bambini ad addormentarsi tenendoli in braccio. No, direi che proprio non è una... Intanto non è un'abitudine necessaria, insomma. Molti genitori immaginano e pensano che questo sia assolutamente indispensabile per i propri figli. La regola d'oro nell'educazione dei propri bambini è che si avvino al più presto a un'autonomia e non c'è un'età giusta per iniziare, si inizia da subito e quindi dall'addormentarsi da soli, nel senso non abbandonati, ma comunque in un contesto che sia appunto la stanza propria, il proprio lettino con una voce vicino rassicurante, ma comunque da soli, al mangiare al più presto da soli, andare a controllare, come diciamo noi, gli sfinteri, cioè andare in bagno. Sono tutte operazioni che il bambino può svolgere autonomamente man mano che cresce e i genitori devono essere attenti e consentire ai bambini questo tipo di sviluppo. No, però qui il nostro ascoltatore direbbe, mio figlio si dispererebbe in questo momento, nel momento non in cui viene lasciato più da solo. Come fanno a cambiare abitudine adesso? In questo momento è probabile perché ha avuto, come dire, un'educazione, quello che i miei genitori chiamerebbero un vizio, e quindi è più difficile rettificare un comportamento che è stato un po' stabilito in modo anomalo, però prima si comincia e prima è e meglio è, perché questa cosa tende solo a strutturarsi maggiormente più il tempo passa, quindi inizialmente ci vorrà molta pazienza, cioè i genitori dovranno mettersi vicino al bambino che è nel suo lettino, raccontargli una storia, rassicurarlo sul fatto che non vanno via e non lo abbandonano. Poi il nostro Luca aveva anche una raffinatezza in più, cioè non solo doveva tenerla in braccio e cullarla, ma doveva stare pure in piedi, quindi sì, proprio una tragedia. Ma come mai i bambini si prendono queste abitudini? Cioè, un po' è colpa forse dei genitori che gliele danno. Sì, e poi scusa, voglio dire, tornando alla sensoristica, noi da grandi ci addormentiamo in pullman, in auto, invece in piedi, da piccoli in piedi, beh, in piedi adesso vabbè, sì, no, l'hai sparato, esclusi presenti, esclusi presenti, come hanno una sensoristica raffinatissima. Guardi, la domanda del nostro ascoltatore mi sembra molto interessante, voi lo sottolineate, diceva, se ricordo bene, poi proviamo a metterci seduti perché siamo stanchi. Certo. Ecco, questo è il problema dei vizi, vede? O comunque delle cattive abitudini che diamo ai nostri figli, che all'inizio ci piacciono, ma poi diventano un elemento faticose. Faticose, e quindi a quel punto, come dico sempre ai genitori che incontro in ospedale, poi alla fine viene voglia di buttarli alla finestra. Ora uso una metafora un po' forte, sì, ma nel senso che non so se voi conoscete coppie di amici che per far addormentare i figli sono costretti a fare chilometri in macchina la sera perché si addormentano solo in macchina. Uno poi si costruisce dei meccanismi che sono di grande perversione. Vale sempre la pena ricordarsi che la normalità non è questa, la normalità è che uno va a letto e dorme, la normalità è che uno si sveglia in quella notte e non urla, non piange disperato, perché sa che comunque mamma e papà ci sono, cioè educare a ciò che è la normalità è l'aspetto migliore, pensare che i nostri figli siano delle eccezioni, che quindi hanno bisogno di qualcosa in più, dobbiamo essere pronti però ad accettare che questo qualcosa in più ci sia dato anche quando a noi non è così comodo darlo e quando ci costerà fatica. Forse calibrare il limite della normalità, questo è il problema della nostra specie. Va bene, siamo soddisfatti. Grazie, siamo Vicari. Soddisfatti. Grazie. Buon lavoro. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Nei titoli noi abbiamo scritto: se il sistema di distribuzione delle merci in Italia fosse efficiente non ci sarebbe bisogno del governo Monti. Un po' esagerata forse come espressione, ma neanche tanto. E infatti sentirete fra poco il mio ospite Alessandro Ricci. Buonasera Ricci. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, lei è presidente dell'Interporto Bologna, che è uno dei più grossi in Italia, e anche presidente dell'Associazione Interporti Italiana. E gli interporti sono, come dire, lo snodo centrale di ciò che è distribuzione delle merci in Italia. Allora, forse abbiamo esagerato, ma mica tanto. Io sono stato a un convegno dedicato a questi temi della distribuzione delle merci a Torino un paio di settimane fa. Sono venute fuori cifre che mi hanno abbastanza allibito. Una in particolare, ce la ricordi lei? 40 miliardi il costo dell'inefficienza logistica che ogni anno il paese paga. È veramente una cifra impressionante. Vuol dire allora che, insomma, si potrebbero distribuire le merci in un modo talmente diverso da recuperare un valore di questo genere. Ma quali sono i punti critici di questo, insomma, di questo disastro dal punto di vista economico? Dov'è che non funziona? Ma guardi, noi abbiamo un costo della logistica che rispetto agli altri paesi che sono con noi competitor è decisamente più elevato, e quindi questo costituisce questo differenziale. Okay. Le ragioni sono molteplici, non sono mai attribuibili ad un solo elemento o a un insieme di elementi che vanno da un aspetto di carenza infrastrutturale, quindi da un ritardo nella realizzazione di una serie di infrastrutture, ad una mancata politica di programmazione e di pianificazione e anche da una mancata adozione di azioni che rendono più efficiente il sistema. Noi abbiamo un sistema, ad esempio, che è in gran parte centrato tutto sul trasporto stradale. Il sistema ferroviario nel nostro paese è molto, molto debole. Il tema intermodale è un tema che risulta sempre essere in coda a tutti i provvedimenti, non assume mai l'elemento di centralità. Intermodale, Ricci, sono quei punti in cui la merce dalla strada va sul treno e viceversa, no? Sono quei punti. Sono quei punti che coinvolgono direttamente gli interporti. Gli interporti nascono per sviluppare questo tipo di connessione intermodale, quindi trasferire dalla strada al ferro, gestire magari la fase dell'ultimo miglio e quindi togliere camion dalla strada sulla media e lunga percorrenza, favorendo un riequilibrio modale che consenta di avere maggiore snellezza sulle strade, minori consumi energetici, minore emissione in atmosfera, quindi anche una politica sostenibile sotto il profilo del trasporto e della logistica. Abbiamo anche un ritardo nella cultura industriale ed impresa nell'utilizzare questi strumenti. Ma noi abbiamo imprese che lavorano ancora molto con il francofabbrica, che non si occupano dell'attività del trasporto. Abbiamo una scarsa o quantomeno un dimensionamento dell'outsourcing logistico e dell'affidamento in outsourcing logistico delle attività decisamente inferiore a quello che hanno altri paesi competitor, che hanno livelli di efficienza molto maggiori. Mi pare che ci sia anche un problema con tempi di sosta per la dogana nei nostri porti, per esempio, no? In altre parti d'Europa sono molto più rapidi. Diciamo che noi abbiamo un grande pregio, siamo collocati come piattaforma territoriale nel centro del Mediterraneo, avremmo un vantaggio competitivo in termini di tempi di navigazione, che però si annullano rispetto ai porti del nord Europa dovuti a una serie di ragioni, che sono appunto ritardi di carattere infrastrutturale, ma che sono anche intoppi di carattere burocratico. Il container rimane fermo in attesa delle verifiche un tempo molto più lungo di quanto non avvenga in tutti gli altri posti. Abbiamo tempistiche e organizzazione del sistema che in realtà, invece di acquisire come valore aggiunto i 5 giorni di vantaggio, finisce per essere 10 giorni di ritardo. Insomma, è un elenco decisamente critico. Al convegno di Torino è stato presentato Artemis, che è uno strumento che potrebbe dare una mano significativa a questi problemi. Io la saluto e poi introduco Artemis. Grazie Ricci, buonasera e buon lavoro. Grazie e buonasera a lei. Vi dicevo allora, il progetto europeo Artemis vede coinvolte Spagna, Slovenia, Francia, Italia, Italia capofila. Ho intervistato Elio Cereghino, che ha coordinato lo sviluppo del programma. Sentiamo. Bene, Elio Cereghino, allora facciamo una simulazione per capire come funziona Artemis. Devo spedire della merce, sono a Taranto, devo mandarla a Berlino, oggi cosa faccio? La carico su un camion e va su, invece? Diciamo Artemis potrebbe dare la possibilità di valutare tutte le proposte di trasporto che potrebbero raccordare Taranto con Berlino, sia dal punto di vista ovviamente del trasporto su gomma, indicando il percorso migliore e le opportunità e i costi, i tempi per raggiungere la destinazione finale, ma nello stesso tempo fa la proposta di tutte le alternative di trasporto multimodale che esistono tra Taranto e Berlino, quindi sia dei percorsi su treno o integrati treno più gomma, o laddove ci fossero delle convenienze anche trasporti di tipo marittimo o fluviale. Quindi il viaggio viene smembrato dal punto di vista della convenienza in tutto il suo complesso, in tutte le possibilità che ci sono. Ora noi qua in Italia abbiamo poche vie navigabili al di fuori di una linea che è in fase di attuazione tra Venezia e Mantova. Però abbiamo delle ottime autostrade del mare che possono essere delle alternative molto convenienti per il trasporto di merci tra il sud e il nord del nostro paese. Artemis lavora sull'intera regione europea, è un progetto appunto prototipale, si potrebbe fare molto di più nella misura in cui questo sistema si arricchisse, diventasse sempre più d'utile, e qui nella presentazione che avete fatto è venuto fuori che in Italia, come purtroppo avviene in altri casi, non siamo all'avanguardia, insomma. No, è chiaro che c'è da fare un cammino, mettere a fattor comune tutta una serie di opportunità, migliorare la qualità delle informazioni che sono messe a disposizione dell'utenza da parte per esempio degli interporti. Gli interporti sono come delle scatole chiuse oggi, se noi cerchiamo di sapere qualche cosa dobbiamo direttamente rivolgerci all'interporto e dopo parecchie insistenze ci viene detto quali sono i servizi ferroviari da e per una certa località, in quali giorni si sviluppano, quali sono gli orari, quali sono anche i termini di affidabilità. Artemis vorrebbe mettere queste informazioni semplicemente disponibili attraverso un accesso al sistema e averle disponibili H24 per ogni operatore. Ricordiamo che gli interporti sono quei punti in cui il trasporto su gomma con camion si interfaccia con le ferrovie. Molti ascoltatori e ascoltatrici adesso si diranno: va bene, ma state parlando di viaggi da Taranto a Berlino, cosa c'entrano le smart city? Ma l'importanza di questi sistemi sta nel fatto che poi moltissimo si riduce a ottimizzare quello che è l'ultimo miglio. Avete dato un dato estremamente interessante sulla funzione dal punto di vista della ricchezza per quanto riguarda ciò che avviene nei centri, no, delle città. Sì, perché diciamo i processi di consegna o anche di raccolta della merce avvengono in prossimità delle città o molto spesso all'interno della città, specialmente la distribuzione opera nelle città, quindi la grande distribuzione è uno dei capitoli più complessi della gestione della logistica e in questo senso occorre creare le condizioni per avere un impatto almeno controllato e nei limiti del possibile anche minimizzato sulla vita e sul traffico che esiste sulle città. Perché ricordiamolo, questo tipo di sistemi hanno anche e soprattutto il grande obiettivo di diminuire per esempio tutta la componente di CO2. Il dato che veniva fuori è che il 70-80% della ricchezza, insomma, del prodotto interno lordo europeo, ruota intorno ai centri delle città. Le chiedo, Cereghino, Artemis allora è online? Sì, Artemis è disponibile per la sperimentazione soprattutto da parte dei potenziali utenti e delle società che operano nel contesto della logistica, sia per fare delle analisi puntuali sulle opportunità di trasporto, sia per mettere in vetrina i loro servizi. Noi vorremmo creare le condizioni per sapere con precisione le caratteristiche e l'offerta in termini di intermodalità degli interporti operativi, ma dei porti, dei centri logistici, di tutte le piattaforme che operano non solo nel nostro paese ma nel contesto europeo. Perché ricordiamo anche in conclusione che Artemis è un sistema che acquisirà l'esperienza fatta da chi l'ha utilizzato. Esatto, Artemis metterà a fattor comune in termini di perfezionamento le esperienze che raccoglieremo attraverso tutta una serie di workshop e seminari che verranno fatti in giro per l'Europa, ma poi sarà l'utenza a governare il processo di arricchimento della base dati. Diamo l'indirizzo internet: www.artemis-project.eu. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Io lo prenderei anche, ma che cosa mi mangia? E in effetti sono molto costosi. Poi, sai, fosse uno, ma sono 30. Cioè, devo prenderne in blocco? Credo che all'asta siano in blocco. Adesso, insomma, spieghiamo anche agli ascoltatori. In Campania. La regione Campania possiede 30 mufloni che a suo tempo comprò, mi sembra, tra la Sardegna e la Corsica. Ecco. E ora, purtroppo, siccome mantenerli costa molto, in un periodo un po' di crisi che e di tagli, ragazzi, ecco. Si vendono anche i mufloni. Esatto, si vedono costretti a vendere 30 mufloni. muflone. Quindi, insomma, chi fosse interessato, io provo a lanciarlo. Li mettiamo in contatto. Sì, mettiamoli in contatto, insomma, in qualche modo salviamoli. Ma è grosso. Sono in provincia di Salerno, ecco, insomma, regolatevi anche per dover andare a recuperarli, magari non è facilissimo. È più grande o più piccolo di un'orsa? Ecco, adesso questo magari lo chiediamo l'attacco agli esperti, perché non saprei risponderti, però in questa settimana abbiamo molte notizie che riguardano gli animali, una era appunto questa e una viene invece dal Trentino, ci spostiamo a nord della penisola e in particolare dalla provincia di Trento, perché cos'è successo? Fantastico. Sono stati avvistati 4 orsi composti in questo modo, mamma orsa, e 3 cuccioli, 3 orsetti, che attraversavano una statale, quindi una grossa strada, e ci sono delle foto di una signora che li ha visti per primi e che ritrae gli orsi e gli orsetti che attraversano la statale, quindi con le auto completamente ferme, ha bloccato completamente il traffico foto, di entrambe flash. Le direzioni, foto, flash, filmini, cellulari, smartphone, ovviamente le foto sono arrivate subito in rete, e allora noi abbiamo pensato di metterci in collegamento con chi l'orso lo studia in Trentino e lo osserva, e quindi con il servizio foreste e fauna della provincia di Trento, ed è qui con noi il referente per la gestione dell'orso, Claudio Grossi. Intanto buonasera Grossi. Buonasera. Eccoci qua. Ecco, abbiamo detto giusto, insomma, sono stati avvistati recentemente questi 4 orsi, composti appunto da mamma orsa e 3 orsetti. Non è proprio così inusuale vederli, beh, magari su una statale sì, di giorno soprattutto. Esatto, la cosa particolare in questo caso è il fatto che l'incontro è avvenuto di giorno. L'orso è un animale che solitamente si muove di notte per evitare l'uomo. In questo caso si vede che mamma orsa non era così preoccupata e ha ritenuto di doversi spostare in quel momento. No, possono essere diversi fattori che condizionano gli spostamenti di questi animali. Direi che è interessante il fatto che, beh, da un lato la disciplina di questi automobilisti che sono fermati per far transitare questi animali, e dall'altro i commenti molto entusiasti si sono registrati sui giornali. Cioè gli umani si sono comportati bene, lei dice. E questa volta si sono comportati bene. Ci sono tanti aspetti da valutare. Intanto questi orsi attraversavano 2 luoghi, diciamo, questa statale, ma ai lati di questa statale c'erano dei grossi boschi, quindi degli habitat ideali per gli orsi. È importante ricordarlo. La strada in quel punto attraversa una zona che costituisce il collegamento tra 2 massicci montuosi, quello della Paganella e quello del Monte Bondone, entrambi boscati, dove l'orso vive, quindi è un punto di transito non solo dell'orso ma anche di cervi, capriole e di altri animali, e quindi diciamo non è così strano che hanno bisogno di territorio grandi, e per spostarsi incontrano naturalmente anche delle strade che devono attraversare, e questo costituisce anche un rischio alle volte naturalmente per gli animali stessi ma anche per... Ecco, forse vale la pena ricordare per chi soprattutto conosce la zona che zona fosse, e che non siamo nel parco dell'Adamello. Esatto, non siamo nel parco dell'Adamello Brenta, ma siamo in una zona abbastanza vicina, praticamente pochi chilometri a ovest di Trento. Diciamo che se uno fosse partito da Trento in auto sarebbe arrivato lì in 10 minuti dalla città, perché sono veramente pochi chilometri. Ma scusi, però la zona è già molto tranquilla, molto verde, è già, come dire, abitabile da orsi. Però se la strada divide una zona dove stanno gli orsi e un'altra dove pure stanno, però loro la strada proprio, oppure la attraversano alle 3 di notte? Sì, come dicevo, di solito il spostamento avviene di notte e abbiamo molte segnalazioni di fatto. Ah. Non solo agli orsi ma anche agli altri animali di notte, di giorno è più raro. C'è una particolarità che non abbiamo ancora detto, esatto, che i 3 orsetti, diciamo i cuccioli, erano tutti e 3 di colore diverso. Il primo molto scuro, erano proprio in ordine di gradazione, il primo molto scuro, quello centrale un marrone più chiaro, un marrone dorato, e l'ultimo era quasi bianco. Quasi bianco, è vero, sì. È vero, e questo naturalmente ha fatto crescere molto l'attenzione e l'interesse del pubblico, perché è una cosa abbastanza rara. Il fatto che l'orso, che si chiama infatti orso bruno, sia assolutamente bruno non è una regola appunto, ma ci sono delle variazioni cromatiche del mantello molto significative anche, quindi si possono avere soggetti molto scuri, quasi neri, e raramente soggetti molto chiari, quasi bianchi. Va precisato che in quest'ultimo caso non si tratta comunque di albinismo, che insomma è una malattia, ma semplicemente proprio di una variazione cromatica del mantello che ogni tanto si riscontra. Quindi è solo una questione genetica, in realtà fanno parte della stessa specie e non era, ecco, un orsetto albino. Esatto. Una storia extraconiugale di un orso bianco in vacanza. Non si può escludere. escludere. Non si può escludere. Vero. Poi questi orsi li seguite molto bene, tanto che addirittura questo orsetto, diciamo dalla colorazione più chiara, che sembra quasi bianco il mantello, l'avevate già osservato. Voi ci avete inviato anche, lo metteremo sicuramente sul sito, un video dove lo avete incontrato qualche settimana fa in un bosco, dove avete tutti dei rivelatori, delle fototrappole. In realtà non sono trappole, ma sono delle telecamere a infrarossi per vedere il comportamento che questi orsi hanno, e l'avevate già scovato. Sì, la privacy degli orsi non è molto tutelata. No. Siamo abbastanza invadenti. In realtà per motivi di ricerca si utilizza anche il fototrappolaggio, appunto. Poche settimane fa abbiamo filmato un altro orsetto bianco. In realtà non è questo. Ah, non è lui? Fratello, ah, un fratello. Ce ne sono due. Pensiamo, siamo fratello. Che con la cui presenza era nota già da un anno, quindi siamo sicuri che è ancora presente, tra l'altro in una zona non lontana da quella. E adesso attendiamo i risultati delle indagini genetiche per capire se effettivamente questi tre nuovi cuccioli, tra cui il bianco, sono, come riteniamo, figli della stessa madre. Della stessa madre. Ma è uno di questi qua che leccava la... Sì, è tenerissimo il video, veramente dovete vederlo, esatto. Perché l'orsetto si accorge che c'è qualcosa di strano sull'albero, si arrampica, lecca la telecamera l'obiettivo. E ovviamente l'obiettivo... Si appanna. Senta, ci dà un attimo le dimensioni? Questi orsetti qui quanto sono grandi rispetto, non so, a un cane? Ecco. Questi orsetti che hanno attraversato la strada l'altro giorno sono molto piccoli ancora, hanno solamente 4-5 mesi di età e possono pesare 6-7 kg. Non... Ah, quindi sono molto piccoli. Quindi la grandezza di un cane? No, molto meno direi. Ah, molto meno? Sì, devo dire un cagnolino. Un cagnolino cuccio. Nascono in gennaio, che sono veramente meno di 500 grammi. E poi in una crescita velocissima, alla fine dell'anno possono essere già 30-40 grammi. Quindi sono come un gatto, praticamente. Poco più di un gatto. E la mamma quanto è grande? La mamma è più grande. Un'orsa adulta può essere attorno ai 100 kg. Beh, devo dire che dalle foto sembrava più grande. Sembravano più grandi i cuccioli. Vabbè, comunque metteremo tutto sul sito. E invece per quanto riguarda l'aggressività, questi orsi sono abituati, insomma, a vivere, non dico a contatto con l'uomo, ma comunque in aree abitate, e quindi abbiamo sentito anche negli scorsi anni che ci sono stati dei problemi. In questo caso sembra che in effetti gli esseri umani si siano comportati bene, ma gli orsi stessi pure, insomma. Certo, diciamo che l'orso conosce molto bene l'uomo nel nostro ambiente, tutti i giorni sente le voci e gli odori della nostra presenza. E teme l'uomo, c'è un dato che dimostra questo. Negli ultimi 150 anni in Italia, e quindi parlo anche dell'esperienza abruzzese oltre che quella trentina, perché in Abruzzo c'è un'altra piccola popolazione, non si è mai registrato un caso singolo documentato di aggressione dell'orso all'uomo. Quindi è un dato estremamente tranquillizzante, direi, perché gli incontri ci sono tutti i giorni. E ciò non di meno, l'orso è un animale che più forte di noi, più grosso, più veloce, può arrampicarsi in cima a un albero, nuota benissimo, quindi è un animale potenzialmente pericoloso e come tale va considerato e rispettato. Quindi per esempio noi consigliamo sempre di non avvicinarsi, di non seguire gli animali per effettuare delle fotografie. Quella situazione poteva essere, parlo dell'attraversamento dell'altro giorno, anche potenzialmente problematica, perché se uno sconsiderato avesse deciso di seguire l'orsa per fotografare gli orsetti da vicino, questo avrebbe potuto in generale nell'orso una reazione quantomeno di aggressività, almeno mimata, per scongiurare, certo, per allontanare quello che lei considera un pericolo. Certo, certo, un atteggiamento istintivo, diciamo, della mamma verso i cuccioli. Esatto, ecco. Sì. Quindi ci vuole attenzione. Non succede quasi mai nulla, ci vuole rispetto e attenzione perché sono animali selvatici. Convivenza pacifica, ecco. Però dalle immagini loro sono veramente piuttosto vicini, cioè non hanno paura. Meno di un paio di metri. C'è un motociclista che sarà a 2 metri, però è lì molto corretto, fermo. Se la madre si butta da un ponte, si buttano anche loro, così diciamo. Quindi gli orsetti la seguono. Ma anche la mamma era tranquilla. Era tranquilla, anzi a un certo punto c'è una foto in cui si vede che si gira e vede se insomma effettivamente i cuccioli la stanno seguendo. Esatto, ci hanno raccontato alcuni testimoni che si sarebbe alzata in piedi per controllare che la seguissero. Tra l'altro, se è l'orsa che riteniamo, è un animale che ha 10 anni di età ormai, quindi un'orsa adulta con una certa esperienza, alla sua, non ricordo se terza o quarta cucciolata. Ah, aspetta. Una mamma, insomma, che si è fatto suo. Diciamo che li conoscete quasi tutti per nome. Il monitoraggio genetico ci ha consentito finora proprio di individuare quasi tutti gli animali presenti, riteniamo, e nel momento in cui individuiamo geneticamente sappiamo chi è il padre e chi è la madre. Quando lei dice monitoraggio genetico intende dire che al loro passaggio lasciano sicuramente dei residui biologici che possono essere di varia natura, pelo piuttosto che feci, e quindi voi in questo modo ricostruite il DNA. Esatto, proprio così. Quanti sono? Ma l'ultimo censimento è quello del fine 2011 e parlava di tra 33 e 36 animali presenti. Quest'anno riteniamo che le cucciolate nuove siano 4, fino a questo momento, con quindi 7-8 nuovi cuccioli, e quindi riteniamo che la popolazione possa essere attorno ai 40 animali adesso. Bisognerà fare una corsia preferenziale sulla strada. Una specie di pista orsabile. L'orsabile come c'è la ciclabile. Grazie mille, Gross. Riguarda soprattutto anche altri animali, naturalmente. Certo. Lì c'è un bel traffico. Certo, mufloni non li volete? No. Non li volete. 30 mufloni. Sono autoctoni delle Alpi. Niente. Però vengono... meglio riportarli in Sardegna o in Corsica. Ecco, ha ragione. Va bene, grazie davvero, buon lavoro, Gross. Niente, arrivederci, buon lavoro. Continuiamo a parlare di orsi, però anche sottolineando che in tempi come questi di grande crisi certe manifestazioni particolarmente stupide dell'umanità danno fastidio. Sì, spieghiamo che cosa fai riferimento. Un canadese, Jim Martel, diciamo nome e cognome così almeno ecco, si senta chiamato in causa. Jim Martel, Martello. Ha speso $45,000 per andare a caccia di orsi polari. E l'ha trovato. Di questo tipo di stupidità, se posso dire, ne ho sentito parlare spesso, perché ci sono addirittura cacciatori che vanno a caccia di elefanti. Nella savana ci si vede veramente di tutto. E quindi, insomma... Va bene, questo qui c'è una bella foto di lui in rete su un settimanale di scienze inglese. Che devo dire, è stato anche particolarmente fortunato, o sfortunato l'orso, fortunato lui, insomma, non si sa. Perché comunque, oltre ad essere stato beccato con le mani nel sacco, ha, come dire, ucciso il primo e unico grizzly orso polare, cioè un incrocio tra un orso polare appunto e un grizzly. L'orso polare è l'orso bianco, che per gli esperti il nome scientifico è Ursus marittimus, e invece l'orso grizzly o orso grigio è Ursus arctos horribilis. Però era il grizzly che anticamente, un quarto di milione di anni fa, si spostò verso il nord, e lì probabilmente con queste mutazioni, no, che si hanno di pelo, di corpo dovute esterne, anche cambiamenti climatici. Cambiamenti climatici, perché ha trovato la neve, ha trovato il bianco, e quindi i bianchi sono più protetti, sono meno visibili, ed è diventato orso bianco. Che cosa succede? Che adesso però i grizzly, che non si spingevano più in alto perché c'è il ghiaccio, la neve, insomma, con lo scioglimento dei ghiacci, diciamo che i due habitat si stanno incrociando. L'orso polare scende a sud e invece il grizzly si sposta piano piano più a nord, e quindi sono più frequenti o meglio questi incroci, e proprio questo sarebbe un po' la testimonianza di quello che sta succedendo. Cioè una grizzly o un grizzly se è in contatto con una polare o un polare, insomma, hanno fatto un po' d'amore. Questo scemo, dopo aver ucciso il signor Martel, cosa ha scoperto? Che l'orso aveva delle macchie di pelo appunto marrone, aveva delle zampe sul marrone, e quindi poi alcuni che evidentemente intendendosene hanno esaminato il corpo hanno individuato il, come lo chiamano, grizzly adesso? Allora adesso sì, ovviamente i media locali canadesi si sono completamente sbizzarriti. Allora hanno creato Pizzly, Grolar Bear oppure anche Polar Grizz. Insomma, speriamo che non se ne senta più parlare in questi termini, però insomma staremo a vedere. 45.000 donne, ma pensa tu. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Andiamo a Bologna, dove tanti ricercatori di centri di ricerca italiani e di università hanno raccolto, provenendo appunto da tutte le parti del paese, tante idee, le hanno messo in una scatolone e poi l'hanno rovesciato lì a Palazzo Renzi. E di che si tratta? Si tratta di una manifestazione che si chiama Emblema, e abbiamo qui il CEO, il direttore, insomma, di Emblema, Tommaso Aiello. Buonasera Aiello. Buonasera a voi. Allora, è andata, va un po' sempre così, no? Perché non è la primissima che fate. Arrivano ricercatori con tante idee più o meno sviluppate e voi le fate incontrare con tante aziende. Sì, la Borsa della Ricerca è alla terza edizione. In realtà i panieri secondo me sono due, nel senso che diamo l'opportunità ai ricercatori di, appunto, di raccogliere le loro idee, di presentarle, ma facciamo la stessa cosa con le aziende. Diamo la possibilità, le identiche modalità, diamo la possibilità alle aziende di presentare le loro istanze e rovesciarle in maniera esattamente identica ai ricercatori. Quindi creiamo... ognuno porta le sue idee, le sue esigenze, i suoi desideri. Esatto, ognuno le presenta prima dell'evento, l'evento è un punto d'arrivo, le presenta in un portale attraverso un'area riservata, tutti cercano e tutti possono curiosare sulle tra le idee presenti e decidono loro chi vogliono incontrare. Quindi qui si incontrano, si confrontano soggetti che hanno scelto di vedersi. Certo. E quindi anche un momento in cui, al di là dei contenuti di ricerca tecnologici, ci si incontra, anche umanamente, psicologicamente. Esatto. Cioè, quello che ripetiamo spesso è che la compatibilità, diciamo, tecnico-scientifica la valutano prima dell'evento. Qui va stabilita la simpatia. Esatto. Ecco, non avendo una dimensione, una connotazione territoriale, perché vengono da tutta Italia, devo capire se ho voglia di lavorare con una persona che magari è a centinaia di chilometri da me. Certo, ci deve essere il feeling, come dicono gli inglesi, cosa che può sembrare strano, ma è fondamentale nelle attività di impresa, soprattutto quelle innovative. Il che vuol dire anche che dall'unione dell'azienda e della ricerca magari insieme viene fuori una terza cosa che non immaginavano, no? Probabilmente c'è anche un suggerimento incrociato e viene fuori il coniglio dal cilindro. Esatto, potremmo definirlo un trasferimento non lineare. Cioè, non è detto che l'innovazione venga da... se io mi occupo, non so, di nanotecnologie, non è detto che l'invenzione o l'innovazione venga da qualcuno che sta ricercando sullo stesso settore. Certo, certo. E di questi esempi in questi anni ne abbiamo sentiti parecchi. Veramente tanti. In conclusione le chiedo i numeri, le idee, chiamiamole così, sono veramente tante. Sì, abbiamo, alla fine sono stati presentati più di 500 progetti, un paio di centinaia sono le linee invece presentate dalle aziende, cioè inviti a presentare idee progettuali. Oggi e domani realizziamo quasi 900, alla fine saranno gli appuntamenti uno a uno. L'unico numero, credo, dell'anno scorso è che a 6 mesi di distanza abbiamo monitorato oltre 100 collaborazioni nuove che si erano create. Speriamo quest'anno di ripetere almeno questo risultato. Questo sarebbe un segnale interessante. Allora io la lascio e andiamo a sentire un ricercatore. Grazie Aiello. Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. E però mi correggo subito perché Ottavio Crivaro, buonasera Crivaro. Buonasera. Lei non è ricercatore, è l'amministratore delegato di una struttura che però nasce fortemente in ambito di ricerca, è il MOX del Politecnico di Milano, una realtà di ricerca piuttosto importante nel creare modelli di simulazione della realtà, da come funziona la fluidodinamica del sangue alle vele delle barche a vela. Allora, voi siete lì per incontrare aziende. Com'è che va questo incontro? Che tipo di problemi vengono fuori? Come si confrontano i linguaggi? Magari non tanto solo dalla vostra esperienza, ma anche quella che vedete intorno. Che tipo di difficoltà, secondo lei, incontrano i ricercatori in questi momenti che sono importanti, però? Certo. Sta andando molto bene, nel senso che veramente sembra di essere alla fiera delle opportunità. Veramente ogni volta che ci si siede di fronte ad un'azienda sembra che arrivi una nuova idea da esplorare insieme. La difficoltà che sento, che vedo, è un po' quella del fiatone. Del fiatone. La scelta del metodo, di questi incontri veloci, perché ti obbligano ad andare subito al cuore di chi sei, di cosa potresti fare insieme alla persona che ti sta seduta di fronte, sì, e di come potresti generare valore. Hai poco tempo e quindi cerchi di sfruttarlo al meglio, ecco perché dico viene il fiatone, no? Certo. Anche perché appunto le opportunità sembrano essere mille. E quindi c'è probabilmente un potenziale che non riesce ad esprimersi, ma con questo lei vuol dire che forse gli incontri dovrebbero essere un po' più lunghi, perché invece poi quello che si dice è che il vantaggio viene dalla gran quantità di incontri. Non vorrei assolutamente, no, per me la modalità è ottima per questa finalità, se poi ci si piace, se davvero si è riusciti quantomeno a colpire l'interesse, perché chiaramente non c'è la possibilità di andare a fondo, però se scocca la scintilla come un vero speed date, allora dopo ci deve essere la possibilità di approfondire, ma dopo. Quindi io lo dicevo solo non come commento negativo, ma come appunto commento generale di come sto vivendo la giornata, no? Mi sembra di essere sempre col fiatone. Sempre col fiatone. Le chiedo un'ultima cosa, siamo in un periodo micidiale, tremendo dal punto di vista economico, quindi anche dal punto di vista delle risorse, dei finanziamenti, si sente lì quando parlate con le aziende tra di voi? Si sente relativamente, nel senso che si capisce che un parametro fondamentale nel cercare di essere attrattivi è riuscire a capire come dare un valore a quello che si propone e come riuscire a dimostrare il ritorno all'investimento di ciò che si propone. E questo mi sembra anche corretto. Sì. Se questo è l'esito del periodo che stiamo vivendo, secondo me ben venga. Può essere un vantaggio in Italia forse? Assolutamente, è un vantaggio sia per chi fa impresa che per chi fa ricerca. Porsi questo obiettivo comune di valutare sempre bene e prima il ritorno all'investimento. Quindi questo lo sento, ma lo sento con favore. Bene, spero abbiate fatto buoni affari, mettiamolo così, perché no? E ci sentiremo prossimamente. Grazie, arrivederci. Grazie, buonasera. La nave Urania appena entrata in porto e Mauro Bassianini ci parla dalla nave. Buonasera Bassianini. Buonasera a tutti. Lei ha coordinato il lavoro di ricerca che la nave ha fatto nell'Adriatico. Noi abbiamo fatto un brevissimo flash una settimana fa per dire, no, di più, che eravate partiti. Sì, due settimane fa esatto. Siamo partiti dal porto di Bari. Avete fatto un setacciamento di ricerca del mare Adriatico. Ci dica intanto qualche cosa di un po' strano che avete trovato. Il vostro obiettivo era esami di tipo ambientale, ma anche così, diciamo, di geologia dei fondali, per esempio? Sì, infatti è un lavoro che è stato multidisciplinare. Ha visto impegnato geologi, biologi, un po' di fisici tutti. E esperti di telerilevamento, quindi misure da satellite. Va bene, prima ci siamo sentiti, mi parlava di correnti di profondità, per esempio. Sì, certo, questa è la nave durante la sua navigazione, durante le misure, fa il monitoraggio anche delle correnti che passano sotto lo scafo. E questo ci ha permesso di evidenziare delle masse d'acqua molto dense che si sono formate durante l'inverno che adesso si stanno spostando verso il bacino più meridionale. E questa diciamo, è un po' una novità. Che cosa vuol dire masse d'acqua un po' dense? Allora noi appunto suddividiamo le masse d'acqua secondo delle loro caratteristiche fisiche e chimiche. E il bacino dell'Adriatico è molto importante in ambito mediterraneo perché è uno degli spot dove si producono le acque più dense che poi innescano tutta la circolazione profonda. E durante questo inverno, grazie degli eventi di vento di bora molto forti, si sono formate queste notevoli quantità di masse d'acqua. Ecco, ma mi scusi, acqua sì. Densa, uno dice l'acqua è l'acqua, cosa vuol dire? Acqua vuol dire molto salata, molto fredda, quindi aumenta certo. la propria densità già. Quindi si muove negli strati più profondi. E che cosa può determinare questa differenza di densità? La differenza di densità appunto fa sì che le acque si separino in qualche modo fisicamente e le masse d'acqua più dense si muovano e scivolino verso i fondali a profondità più elevata. Ed è la temperatura che può variare allora del mare globalmente? La temperatura e la salinità. Queste sono appunto perché il vento, un vento freddo e secco come quello della bora, fa evaporare molto, raffredda e fa evaporare molto velocemente degli strati più superficiali, trasformandoli appunto in acque molto, molto dense che poi si sprofondano. È abbastanza strano, no? Questo rapporto tra il vento e l'acqua. Certo. Sì, no, ma è una cosa ben nota, insomma, che noi seguiamo con interesse perché c'è questo accoppiamento tra i fenomeni atmosferici mari e quello che avviene poi negli oceani. E anche in profondità. Senta, però la cosa più importante, credo, del vostro lavoro sia questi dati che avete raccolto per un collegamento che mette insieme l'acqua, la luce e lo spazio, cioè i satelliti. Certo, una parte importante di questa crociera è stata quella di validare i dati che vengono i fenomeni che vengono osservati da satellite con dei dati rilevati sul posto. Sono quelle che vengono chiamate dagli esperti punti di verità mare. Quindi, soprattutto per quanto... Esatto. Concretamente, cosa avete fatto? Allora, ci sono tutta una serie di strumenti ottici, ma anche di analisi di laboratorio, che misurano delle... Per esempio, un parametro importantissimo che viene rilevato dal satellite è la concentrazione di clorofilla, cioè di quanto le piante stanno producendo, come microalghe soprattutto, in mare. E questo è un parametro che va poi valutato anche direttamente sul posto per poi avere una calibrazione di quello che viene osservato dallo spazio. Ma perché è possibile dallo spazio avere dei dati così precisi zona per zona sul mare, e in questo caso per esempio sull'Adriatico? Perché mi pare che la novità di questo satellite che dovrebbe partire è che è in grado di fare un'analisi che di solito si fa solo in loco. Esatto, finora diciamo i satelliti hanno lavorato molto bene nei mari aperti, negli oceani, ed era molto difficile riuscire a determinare invece le caratteristiche delle acque più vicine alla costa, proprio perché sono influenzate dalle acque continentali, dall'influsso dei continenti, e quindi era più difficile calibrare. Adesso con questi nuovi sensori e le campagne appunto di calibrazione si riesce anche a stimare questi parametri anche nelle zone più costiere. Analizzate, prendendo campioni d'acqua, dei dati che però poi dovranno essere trasportati in una programmazione del satellite. Esatto, infatti questa parte della crociera è stata finanziata dall'Agenzia Spaziale Italiana, che è direttamente coinvolta in questo progetto che si chiama CLAMFIM. Bassianini, grazie, chiudiamo qua e auguri per altre ricerche sul mare. Grazie a voi. Facciamo puntate con dentro un sacco di roba e quindi arriviamo in fondo, che abbiamo solo pochi secondi per dirvi buona settimana a tutti e a tutte. Ci vediamo qui fra 7 giorni a Möbius.